Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti, sono le 11.08, siamo pronti per una nuova puntata, saremo insieme fino a mezzogiorno con Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione e naturalmente con i titoli del nostro sommario. E vissero felici e contenti. Succede solo nelle favole? Parliamone. Capelli, tra tanti consigli, fai la scelta giusta. Castagna, regina del bosco e della tavola. Stavo pensando che la vita di coppia per qualcuno diventa a volte una strana parabola. Si comincia unendo due single che diventano coppia e poi dopo alcuni anni può capitare che i due partner, svanita, no, passata questa forte intesa iniziale, si vivano all'interno della coppia come due single, insomma ritornino un po' al punto di partenza pur vivendo insieme sotto lo stesso tetto. Perché succede? Si può evitare secondo voi? Si può vivere insieme, come dicono le favole, lungo, felice, contenti, smentendo anche un po' il vecchio detto che afferma che il matrimonio, oggi dovremmo dire, possiamo dire, le relazioni stabili sono la tomba dell'amore? 800 24 0024, ditemi subito cosa ne pensate oppure scrivetemelo al 349 238 6666. Ragioneremo insieme a tanti ospiti, qua in studio con me Alberto Pellai che lavora tanto con le coppie, soprattutto quando i due partner si trasformano in genitori e si trovano a dover affrontare la sfida, se vogliamo chiamarla con un termine caro ad Alberto, di rimanere coppia nonostante i figli. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, dal mio punto di osservazione posso dire che a volte le coppie riescono a funzionare moltissimo nel loro ruolo di madre e padre, cioè diventare ottime coppie genitoriali, ma spesso si perdono nell'essere coppie genitoriali e alla fine non si ritrovano invece più come coppie amorose, per cui improvvisamente si accorgono che il 100% del loro tempo è speso a fare la mamma e il papà e non il compagno, la compagna, l'amante, l'amico l'uno dell'altro, il complice. È un po' come se la coperta fosse troppo corta e si rimangono i piedi o le spalle scoperte, invece si può allungare questa coperta, no? E in molti casi tutti. È proprio anche una sfida educativa, si può a volte dire ai figli adesso è tempo non di mamma e papà ma Sante di marito parole. E moglie. 824 0024, la pensate anche voi così e come riuscite? Ma in linea con noi abbiamo la professoressa Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta che di coppie ne vede in crisi e ne aiuta anche tante. Professoressa Giommi, che piacere, bentornata. Bentrovati. Professoressa, là quando si parla di coppia si parla spesso di crisi, ma la coppia oggi è sempre ancora in crisi, più in crisi e sono sempre gli stessi problemi a metterla in difficoltà oppure lo scenario è cambiato? Ma credo che ci siano più crisi legate al fatto che è cambiata la richiesta che si fa alla coppia, che non è soltanto di essere qualcosa di sociale, di rassicurante, ma che sia qualcosa in cui ci siano anche sentimenti, amore e sessualità. Cioè, quindi questo poi rende la coppia più difficile e questo è una cosa su cui dobbiamo fare delle riflessioni, perché le coppie di oggi sono fatte da persone che si sono abituate anche a vivere da soli e a fare molte scelte anche da soli e nel momento in cui costruiscono il noi ha tante regole che devono essere concordate. Comunque, professoressa Giommi, non esistono coppie assolutamente felici, no? Tutti, chi più chi meno, durante la vita di coppia sperimentiamo conflitti, litigi, momenti di tensione più o meno forte. Però le coppie che appaiono più felici, almeno così dicono le ricerche, sembrano avere un segreto, quello di saper gestire i conflitti con affetto e spirito di amicizia, essere quindi più flessibile. Le coppie infelici invece non hanno questa capacità, sono un po' rigide, ma forse questa capacità si può imparare. Alberto, cosa dici? Ma sì, credo che potersi guardare un po' dentro alla coppia, come funziono io dentro la coppia a volte, potersi guardare anche un po' da fuori, cioè com'è la mia coppia e perché sta attraversando una difficoltà così grande, cosa dovremmo cambiare, far diventare alcuni aspetti che sono di conflitto possibilità invece per cooperare, cioè salviamoci insieme, se ci troviamo così in difficoltà può essere un ottimo stimolo, a volte l'aiuto di un esperto esperto come la professoressa Giommi è fondamentale, perché da soli a volte non riusciamo a farcela. Quindi io, se siete d'accordo, starei nella vita di tutti i giorni, perché magari ci sono delle situazioni di attrito, di incomprensione, anche piccole, proprio quasi impercettibili, che possono alla lunga minare in profondità l'intesa di coppia. Quando preparavamo la trasmissione tu hai proprio detto: a volte le coppie si sfasciano per uno tsunami che arriva dall'esterno. Classico esempio: c'è un'altra relazione, sì, l'amante, eccetera. E non è il caso di cui vogliamo parlare oggi. Cioè, a volte le coppie si sfaldano invece per quei logorii proprio impercettibili che giorno dopo giorno costruiscono una fatica di stare insieme. Ci ha scritto un neosposo, così si firma: non aprite questi dibattiti e cercate di tutelare i sani principi di coppia. Professoressa Giommi, una risposta a questo neosposo a cui auguriamo una vita felice, proprio quella, come quella delle favole. Ma ogni tanto è giusto che anche la coppia, capita anche nelle migliori famiglie, si interroghi, debba un po' prendersi le misure, si ritrovi a ricominciare. Questo fa parte anche della vita di coppia, anche il bello della vita di coppia, no? Perché si cambia, la coppia ti cambia e noi cambiamo per una serie di situazioni, per le esperienze che viviamo anche all'esterno della coppia. È verissimo, tra l'altro i terapeuti di coppia americani tanti anni fa ci davano questa indicazione che un contratto di coppia andrebbe fatto ogni 4 anni, perché in 4 anni si può immaginare che tutti e due, o la nostra famiglia, la nascita dei figli, possono comunque aver determinato delle crisi e la crisi in qualche modo può essere letta anche come capacità di rompere l'armonia per riprodurre un cambiamento costruttivo. I cambiamenti non sono obbligatoriamente distruttivi. No, anzi possono appunto essere un modo per, certo, per avere anche più curiosità, più interesse, eccetera. Comunque, in qualche modo il conflitto di coppia dovrebbe essere vissuto in modo dinamico, cioè come un modo per avere anche due opinioni, perché quando si costruisce appunto una convivenza o una famiglia è il momento in cui le antiche regole anche delle nostre famiglie d'origine cominciano a entrare in gioco. E se facciamo di nuovo famiglia, cioè quindi facciamo i figli, in quel momento lì appunto riuscire ad avere la spensieratezza, la capacità sessuale di momenti precedenti non è così semplice e richiede un buon lavoro, cioè certo, quando la coppia è un buon lavoro. Bisogna essere in gamba, professoressa Giommi, per stare in coppia. Bisogna volerlo, ci scrive Anna da Cremona. Sono sposata da 34 anni e la coperta si può allungare. Basta la buona volontà di voler stare insieme. Quindi è un messaggio che diamo al nostro neosposo. Qui non so se invitare ad ascoltare la lettera che ci è arrivata in redazione di una nostra ascoltatrice che ha dato un po' lo spunto per la trasmissione. Allora ascoltiamo questa lettera. La mia coppia sta scoppiando. Non ci sono problemi particolari. Nessuno tradisce nessuno, ma quando alla sera vedo entrare mio marito dalla porta di casa, io so già tutto il copione a memoria. Andrà di là, si cambierà, poi guarderà la TV aspettando la cena, la solita conversazione a tavola con i soliti fatti della giornata e poi un programma serale. Unica variante al copione? La pizza del sabato sera e la passeggiata al lago della domenica. I figli ormai sono all'università e stanno per lunghi periodi fuori casa e quello che mi sembrava essere una buona routine familiare ora invece mi opprime come se io vivessi in una gabbia. Alcuni giorni mi sento arrabbiata, altri triste, altri decisamente depressa e ho paura di perdere la cosa più importante su cui ho investito buona parte delle mie energie, il mio matrimonio e la mia famiglia. Sono in un vicolo cieco. Che cosa posso fare? Cosa posso fare? Ci chiede la nostra amica. Noi possiamo, vogliamo aiutarla, non so, lo chiedo anche a voi per unirvi a noi in una sorta di terapia di gruppo, naturalmente con l'aiuto dei nostri esperti, la professoressa Giommi e Alberto Pellai, che ormai tu ormai sei senza titolo perché essendo di casa, ma volevo chiedere alla professoressa Giommi rapidamente, parlavamo proprio prendendo spunto da questa lettera, possiamo la routine in un certo senso la ingabbiata, ma ci possono essere dei segnali che ci devono così far capire che sta diventando tutto troppo routine? Non so, i silenzi, i litigi, il silenzio delle parole ma anche del corpo in camera da letto, gli interessi diversi oppure quelli sempre uguali che ci costringono a percorrere sempre la stessa strada. Professoressa, ci dia qualche spunto così noi ragioniamo. Allora, perché una coppia funzioni bisogna che il noi della coppia abbia però un io e un tu che stanno costruendo qualcosa, cioè quindi che non ci sia un appiattimento di tutte e due le persone soltanto sul noi della coppia. Tra l'altro, nel caso della signora, i figli lontani fanno sì che lei forse guardi di più quest'uomo con cui vive e si domandi che cosa ha perso, cioè forse quando c'erano i figli si vedeva meno che c'era delle difficoltà, che c'erano delle difficoltà. Sì. L'altro aspetto potrebbe essere che in realtà la routine spesso si costruisce in due, perché certo, si può anche infuriarsi per la routine, oppure si può decidere che il partner fa il riposo del guerriero 4 sere alla settimana, ma alla quinta lo buttiamo fuori a pedate, non lo so, vorrei scherzosamente. Certo. Ecco, credo che in qualche modo una complicità su una routine più attente, e tra l'altro che presuppone anche un io e un tu che crescono poco, certo, possa essere un segnale che in realtà abbiamo voglia di cambiamento, è il numero uno. Due, che i cambiamenti sono sempre possibili, questo io ci credo fermamente. Allora, proviamo a cambiare insieme. Intanto continua la corrispondenza con il neosposo, che adesso ha un nome, si chiama Mauro da Nettuno, e ci scrive: l'amore non è bello se non è litigarello, il momento più bello è il bacio, dopo la ritrovata armonia. Ma arrivano anche molti messaggi, ad esempio, sempre per il nostro neosposo, a cui a questo punto chiederei di intervenire. Ci faccia sentire la sua voce, 800 24 0024, ci aiuterà anche nel corso della trasmissione se accetta il nostro invito. Un messaggio arriva da Andrea, appena messaggio per il mio sposo: appena torna sulla terra dal pianeta Harmony sarà meglio che ascolti buoni consigli, saluti uno sposo non più neo. Non ci dice se è felice. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Se il neo sposo vuole intervenire, noi siamo qui. Una mela al giorno. Nonostante l'autunno stia quasi per cedere il passo all'inverno, i nostri capelli continuano a cadere. Li troviamo sul cuscino, nella doccia, sul lavandino. E poi, se li guardiamo, ci paiono un po' spenti, senza tono. Insomma, non è, come si dice, loro un momento d'oro. Possiamo fare qualcosa per loro? Lo chiediamo alla dottoressa Sandra Lorenzi, dermatologa e direttore scientifico dell'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dottoressa Lorenzi, io credo sia meglio affrontare un problema per volta. Invece, quando vediamo i capelli, ci sembrano radi, brutti, spenti, facciamo di ogni erba un fascio. Andiamo con calma. Allora, prima di tutto chiariamo il concetto della caduta dei capelli. È normale che i capelli cadano normalmente a tutti i soggetti, in quanto c'è comunque un ricambio fisiologico. Stabiliamo che è normale una caduta quotidiana all'incirca di 10-50 capelli. Una caduta può essere definita normale quando supera la perdita di 700 capelli alla settimana. Sicuramente quindi una caduta di questo tipo è sinonimo di una malattia del capello e quindi chiaramente richiede una visita medica, soprattutto se associata ad un diradamento. I capelli quindi è normale che cadano in questa stagione. Non si sa quale sia in realtà poi fisiologicamente la causa. Si pensa che comunque sia molto importante la quantità di sole a cui è sottoposto il cuoio capelluto durante il periodo estivo. Quindi sono dei capelli in questo periodo che richiedono sicuramente un po' di supporto, un po' di nutrimento, sono dei capelli un pochino più secchi, un pochino più fragili. Cosa possiamo fare? Allora, si può iniziare praticamente dalla cosmesi, oppure dall'uso di lozioni o uso praticamente di prodotti un pochino più specifici quali gel, schiume. Diciamo che uno shampoo deve essere prima di tutto sicuramente uno shampoo che ha una base lavante dolce, per chi non ha chiaramente problemi di capelli particolari quali forforo o altri tipi di problemi. Cosa possiamo leggere in etichetta per capire che stiamo usando lo shampoo dolce che lei ci consiglia? Allora, uno shampoo come di base deve contenere prima di tutto dei tensiattivi primari che detergono bene il cuoio capelluto e i capelli, dei tensiattivi secondari che sono quelli che favoriscono la schiumosità dello shampoo, e poi sostanze coadiuvanti quali possono essere ad esempio anche i derivati del silicone, i derivati polimeri cationici, che sono quelli che migliorano l'appetibilità del capello stesso. Il pH comunque deve essere acido, questo è estremamente importante, intorno ai 5, perché è quello che permette il reintegro della struttura del capello stesso. E ci permette anche di lavare i capelli tutti i giorni? Il lavaggio è molto in relazione alle abitudini praticamente del soggetto. È chiaro che se un paziente svolge praticamente dei lavori che lo espongono a delle polveri ambientali, è anche giusto lavare praticamente i capelli tutti i giorni, altrimenti può bastare anche due volte alla settimana tranquillamente. Ma spesso noi vediamo i nostri capelli che sono così spenti, così poco in forma, che ci viene voglia di lavarli. Abbiamo la sensazione che più li laviamo, più il capello rende meno e quindi i lavaggi si riavvicinano. Stiamo usando un prodotto sbagliato? È una nostra sensazione o cosa capita? Diciamo che la struttura del capello e il suo aspetto estetico è anche molto in relazione alle abitudini. Chiaro che ciò che noi facciamo al capello, quindi le decolorazioni, le tinture, i permanenti, possono praticamente modificare molto l'aspetto del capello e anche quindi rendere questo aspetto di opacità. Ci sono anche delle patologie del cuoio capelluto, tipo la forfora, la dermatite seborroica, che possono influire anche da questo punto di vista sull'aspetto estetico. Diciamo che una pulizia quotidiana, cioè un trattamento di due volte alla settimana, lavare i capelli, fare praticamente delle maschere, utilizzare il balsamo, che è la cosa più importante perché permette la facile pettinabilità dei capelli, possono aiutarli nel migliorare il loro aspetto estetico. I prodotti anche utilizzati praticamente per lo styling, che sono quelli utilizzati per la messa in piega, possono conferire un fissaggio, una tenuta a controllo della pettinatura, possono migliorare la brillantezza e l'aspetto estetico praticamente dei capelli stessi, così come anche l'acconciatura stessa e quindi anche la spazzolatura o la pettinatura. C'è anche questa bella teoria di pettinare i capelli tutti i giorni e spazzolarli 100 volte al giorno, è assolutamente sbagliato. I capelli prima di tutto vanno districati da asciutti, in quanto i capelli bagnati sono più elastici e quindi si rompono più facilmente, e quindi è assolutamente bene evitare di spazzolare eccessivamente i capelli, così come di cotonarli troppo, perché pensiamo per assurdo di dargli un aspetto migliore, invece in realtà danneggiamo la cuticola. Dottoressa Lorenzi, la ringrazio per l'aiuto, le auguro una buona giornata. Anche a lei, grazie mille. Ci sentiamo presto, buona Buongiorno giornata. Buongiorno a tutti, arrivederci. Pronto soccorso. Gary? Sì? Hai comprato 3 limoni. Beh, quando bimba vuole, bimbo scatta. Sì, però erano 12 che bimba ne voleva. Perché ne vuoi 12? Per un centro tavola con 12 limoni. Quindi neanche sono da mangiare, i limoni sono solo dei simpatici limoni da esposizione. Dopo 2 anni insieme, Gary e Brooke hanno raggiunto il punto critico nel loro rapporto. Bene, Chiara? Ti aiuto a fare i piatti? No, dai, non fa niente. Se hai detto adesso che vuoi che ti aiuti a fare i piatti... Io voglio che tu voglia fare i piatti. Perché dovrai volere fare i piatti? Ah! Ne ho abbastanza. Questo brano è tratto dal film Ti odio, ti lascio, ti, con Jennifer Aniston. Alberto, tu l'hai visto? Sì, un film Alberto davvero divertente. Alberto vede tutto, non gli scappa nulla. Senti, ma l'abbiamo selezionato perché ci rendiamo conto, per chi vive in coppia, questo si sa, che a volte ci si parla senza però capirsi. Allora, io ho provato a chiedere al professor Perna, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Direttore scientifico del Mental Fitness Institute. Professore, da esperto ma anche da uomo, vorrei che lei ci aiutasse a capire perché noi ci parliamo e voi uomini non capite mai quello che diciamo noi, e lei dovrebbe dire viceversa, lo so, lo dica. Beh, è ovvio questo, viceversa. Diciamo che forse la scuola più lunga nella vita di una persona è proprio quella di imparare il linguaggio del sesso opposto, proprio perché abbiamo cervelli diversi, ricordiamoci. Sì. Che proprio esistono strutture anatomiche diverse. Ci sono delle scenette che tutti conoscono, purtroppo sono vere realtà. Facciamo un esempio banale, queste sono cose che ricordo della mia vita personale. Io posso essere davanti alla televisione a guardare un film, una partita di calcio, quello che vogliamo, ho la compagna che mi parla per dirmi delle cose, io non riesco a sentirla perché sono uomo, perché l'uomo riesce a fare una cosa solo alla volta. A quel punto lì vengo sgridato, non mi ascolti, uno cerca di spiegare, ma io sto guardando la televisione, non posso ascoltarti. E purtroppo la donna queste cose non le capisce per un motivo, perché lei riesce a fare effettivamente contemporaneamente tutte le cose. Immaginiamoci la scena in macchina di una donna che contemporaneamente guarda i bambini, guida, si trucca e risponde al cellulare. Ecco, l'uomo potrebbe farlo mai. Se fa una cosa del genere si trova spiaccicato con il muro. Purtroppo è proprio anche il significato delle parole che cambia. Ti faccio un esempio particolare. Sì. La stessa parola "non mi ami più", detta da un uomo, ha un significato secco. Non mi ami più, nel senso che tu non mi ami nel senso sentimentale del termine. Sì. Se invece viene detto da parte della donna, il significato è più "non mi dai attenzione". Quindi è chiaro che se un uomo o una donna non capiscono questa cosa qui, tendono a comportarsi secondo il proprio linguaggio. Quindi è come se un cinese parlasse con un italiano e traducesse le parole secondo il suo punto di vista. Immaginatevi il disastro. Dovremmo inventare un traduttore simultaneo per la coppia, professore. Assolutamente sì, quello è, farebbe un gran bene a proviamo, tutti quanti. Proviamo a pensarci e facciamo, scriviamolo almeno, un'indicazione per capire le parole di lei e le parole di lui, viste da due cervelli diversi. Sì, John Gray lo ha fatto nel suo libro, devo dire che anche in psicofisica. Ma già ha rubato l'idea, vedi, esatto, che arrivo sempre in ritardo. Lui è arrivato prima di tutti, devo dire, no? Però insomma ci sono delle evidenze molto interessanti e quel libro di John Gray è molto divertente. Uno si fa tante risate a mare perché alla fine si riconosce. Si ricorda anche il titolo, che così lo suggerisco. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Ed è un libro, veramente c'è la versione anche nuova di adesso, ma è secondo me interessante. Si ride molto su noi stessi, che l'autoironia è sicuramente una cosa importante. Grazie professor Perna. Ecco, ci siamo tornati insieme, oggi parliamo di coppia, devo dire che siete fantastici, siamo, perché stiamo mettendo su una sorta di terapia di gruppo per trovare una soluzione ad una nostra ascoltatrice che ci ha scritto che dopo anni di matrimonio, insomma, la routine la soffoca e questo marito fa sempre le stesse cose, ma devo dire un grande aiuto arriva da tanti sms che suggeriscono modi. Consigli pratici per la nostra ascoltatrice. Cambiare la routine non è solo responsabilità del marito, perché non cambia lei il copione che non le piace più, quindi si inventi qualcosa per ravvivare la vita di coppia. Ancora, coltivi di più il suo io, proprio come ha detto la dottoressa Giomi, visto che per il noi della coppia è fatto da un io e da un tu, trovi interessi personali da perseguire in questa nuova fase della propria vita. E poi magari è importante anche fare prevenzione, cioè non arrivare proprio nel momento in cui i figli partono e vanno fuori di casa per l'università a scoprire che quel noi è così fragile ed è costruito solo su una routine che non soddisfa più. Anche perché quando sono piccoli si pensa, adesso che saranno grandi riprenderemo a viaggiare, a uscire, andare al cinema, a teatro, invece loro escono di casa e noi ci ritroviamo sul divano e con le pantofole. 824 0024, intanto che voi continuate a così partecipare a questa terapia di gruppo che mi sembra stia dando buoni frutti, vorrei commentare una bellissima notizia che arriva dall'America. Secondo alcuni dati sembra che il tumore negli Stati Uniti abbia avuto non solo una battuta d'arresto, ma stia perdendo addirittura terreno. In linea con noi la dottoressa Giovanna Gatti, ma bentornata dottoressa Gatti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senologa dell'Istituto Europeo di Oncologia e presidente del Forum Italiano di Europa Donna. Ci racconta che cosa c'è dietro a questo dato? Le statistiche a volte sono incoraggianti, però pensiamo a quando le statistiche fanno vincere tutti alle elezioni. Bisogna saperle leggere anche, perché è vero che per alcuni tumori si assiste a un rallentamento dell'incidenza. L'incidenza è il numero di nuovi casi all'anno. Ed è anche vero che per alcuni tumori sembra che sul lungo periodo, quindi nel futuro, si assiste a una diminuzione. Questa notizia è bellissima, c'è e resta. Sì. Però è anche vero che si parla di grandi numeri, quindi il rischio attuale, soprattutto per alcuni tumori, resta un rischio alto. Quindi bisogna tenere presente che le statistiche sono anche delle proiezioni per il futuro, indicano che evidentemente la malattia in certi casi, cioè per certi organi, frena oppure si riduce, però dobbiamo restare comunque allerta. Certo. Comunque, a fronte di questo, dopo il commento, io la ringrazio di questi dati, che ci vuole sempre un occhio particolarmente attento per commentarli, possiamo dire che adesso le nuove terapie permettono di controllare anche i tumori là in fase avanzata, dottoressa Gatti. Infatti, quindi io vorrei puntare su questo, perché l'importante è dire che realmente la mortalità sta diminuendo, purtroppo non per tutti i tumori, però le terapie stanno aiutando le persone malate di tumore a guarire di più e, quando la guarigione non è possibile, comunque a convivere con una malattia che diventa cronica, quindi che dura molto molto tempo. Dottoressa Gatti, io la ringrazio per essere stato con noi, la sentiremo presto, perché vorrei invitarla a parlare di tumore, vorrei dedicare tra breve una puntata al tumore al seno, quindi la dottoressa Gatti è invitata, tornerà, e intanto io la saluto e le auguro un buon lavoro. Buona giornata. Grazie anche a voi, buongiorno. Tu è meglio che nella mia vita non ci entri mai più. Tanto con te come faccio sbaglio? Va bene, dai. Ci siamo separati per non litigare, no? Poi oggi ci sono i bambini. Te l'avevo anche detto, devo partire. Senti, non litighiamo, risolviamo. Parola d'ordine, risolviamo. È voce del verbo amore di Andrea Manni con Giorgio Pasotti. Alberto e Stefania Rocca ha visto anche questo. Senti, intanto la dottoressa, la professoressa Giommi è ancora in linea con noi. Professoressa, abbiamo preso questo spezzone di film proprio per vedere che dal litigio, i litigi sono anche un po', l'amore non è bello se non è litigarello, ci scriveva quell'ascoltatore, sono un po' anche la benzina della coppia, no? Si impara a litigare, a superare le difficoltà. Una coppia che non litiga mai è quasi una coppia sospetta. Questo dipende molto anche dallo stile familiare, per esempio i toscani sono persone che usano la voce alta, però non gli danno un significato come potrebbe dargli una persona di un'altra regione, cioè, sì. Quindi c'è anche il discorso. Quindi di regione attenti. Che vai, coppia che trovi e che parla in modo diverso. Quindi la coppia a volte può avere anche l'idea che se riusciamo, perché l'abbiamo imparato nella nostra famiglia, a non litigare mai, allora vuol dire che ci vogliamo veramente bene, mentre l'altra persona pensa litigare è costruttivo, litighiamo allegramente. Certo. Ecco, in questo caso a volte il litigio, invece che diventare un modo anche per avere tensioni, poi rappacificazioni, eventualmente fare anche all'amore, cioè diventa qualcosa per cui ti isoli. Ecco, quindi bisogna stare un po' attenti allo stile personale, anche quello la nostra famiglia ci ha insegnato, da un punto di vista di quello è stato lo scopo dei nostri genitori, non litigare mai, non farsi vedere. E l'altro aspetto è che il litigio deve essere appunto dinamico, cioè che in realtà litighiamo, facciamo la pace e magari facciamo di nuovo guerra fra qualche giorno. Sì. Se invece ci isoliamo, teniamo il muso, leviamo la parola, facciamo dispetti, ecco, questo quello può portare ad una separazione, perché in realtà, certo, uno non torna più a casa volentieri, non fa più all'amore, non fa più sesso. E in questo caso non si deve avere nemmeno troppe grandi speranze rispetto alla separazione, perché spesso e volentieri si litiga tantissimo anche dopo la separazione. Andiamo a Napoli, ci aspetta Paolo, 824-0024. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, niente, io telefonavo perché volevo portare anche un po' un'esperienza diversa. Sì. Io ho una storia che dura da 19 anni, quindi tra poco sono 20, quindi sì, è una storia di lungo periodo. Allora, come si fa a superare l'abitudine, le convenzioni, la routine, dicevamo, no? Sì. In un rapporto così lungo è chiaro che è facile il rischio dopo i primi anni di cadere proprio nell'ovvio, no? Nel certo, gabinetto, eccetera. Queste abitudini che danno anche sicurezza, Paolo, c'è anche il bello di questo, però a lei alla fine dice che si fa? E come la sta vivendo lei? 19 anni, che bilancio fa della sua storia? È una favola per me, perché mi sento innamorato come all'inizio. Bello. Noi siamo veramente molto molto molto innamorati. E questo forse è la più grande fortuna, la più grande bellezza della vita, insomma, avere una persona a fianco con la quale vivere questa grande avventura che è la vita di coppia, che è l'amore con intensità. così come lo viviamo noi, io penso sia un dono. Alberto dice, penso, conoscendo Alberto, che non è solo fortuna e impegno, vero Alberto? Probabilmente è proprio una serie di diverse variabili che si mescolano insieme in un puzzle perfetto. Però direi proprio a Paolo, ci dia un segreto. Per esempio, entriamo nella vostra coppia, immaginiamoci voi seduti a cena ieri sera, l'ultima cena che avete fatto insieme. Cosa rende il momento della cena tra voi coppia un momento ancora vivo e vivace, che alimenta il vostro equilibrio e la vostra intesa? Ma noi abbiamo tante piccole cose, per esempio la sera cuciniamo insieme. Nessuno dei due si mette a aspettare l'altro che fa. Torniamo da lavoro tutte e due e la cucina è un momento per scambiarsi tutte le novità della giornata, cosa è successo. Bello, un'ottima idea. Poi? Qualche volta che uno è un po' più stanco, allora mentre uno cucina, l'altro gli legge un libro, gli racconta delle cose. Noi usiamo molto la lettura ad alta voce, ci piace moltissimo. Sì. È un'occasione di condivisione e che ne ha sempre qualcosa da raccontarsi. Abbiamo una vita culturale molto intensa, perché per noi il teatro e il cinema sono comunque elementi di riflessione sulla vita reale, sul quotidiano, su noi stessi. E tutte queste cose. Paolo, insieme... veniamo anche noi, ci ha scritto un ascoltatore. Vado anch'io in quella coppia. Non so che cosa voglia venire a fare, se per rubarle questa compagna fantastica oppure per prendere appunti. Paolo, complimenti, lei ci ha dato in quattro battute un manuale di vita felice. Grazie Paolo, saluti grazie, sua moglie. Grazie a voi, grazie. Siamo tornati, parliamo di coppia, 824 0024, il nostro consiglio di lettura e poi passiamo a voi, alle vostre telefonate. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Doppio Misto di Claudio Bisio e Sandra Bonzi. Dovete mandare naturalmente un'email molto velocemente a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, recapito e numero di telefono. Preciso che il libro arriva a casa al primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta elettronica. In collaborazione con ibs.it. Professoressa Giommi, dopo l'intervento di Paolo, e ho visto anche che Alberto gongolava e prendeva anche un po' appunti, sono arrivati tanti sms che ci scrivono: ma Paolo ha figli? Scommetto che non hanno figli, se avessero figli non direbbero così. Ma Paolo non ci ha detto che ha figli, per cui forse non li ha. Ma sono così un elemento disturbante i figli? Io non trovo. Io credo che possano essere anche un elemento dinamico, l'unico problema è se ti assorbono così tanto e non sei più in grado di avere uno spazio di coppia, cioè appunto la storia di Paolo sembra più la storia tra due persone che costruiscono le loro regole belle, cucinare insieme, leggere insieme, però fa pensare più a due piuttosto che a tre o a quattro, questo è vero. I figli possono essere anche tenuti all'interno dello spazio di coppia per un tempo e poi, come diceva anche Alberto all'inizio, c'è anche un momento in cui si può dire ai figli: ora anche il babbo e la mamma hanno bisogno di tempo e costruire anche questa regola, perché altrimenti credo i figli siano anche motivo di risate, di curiosità, di scambio, però in certi momenti assorbenti. Certo, bisogna cercare un pochino di conciliare i nostri due ruoli di genitori e di coppia, che tra l'altro noi stiamo cercando di far pace a tutti, di trovare delle ricette che servono a noi per primi, perché insomma Alberto c'ha quattro figli, non vi voglio dire altro, ma perché anche lo stare in coppia fa bene anche alla salute, quindi ci guadagniamo. Pensate che questo non è che lo diciamo noi, non è un modo di dire, ma lo ha proprio dimostrato una ricerca. Per saperne di più parliamo con il professor Giovanni De Gaetano, direttore dei laboratori di ricerca all'Università Cattolica di Campobasso. Professore, buongiorno. Buongiorno. Aggiunga anche lei, con la sua ricerca, con i dati di questa ricerca, un motivo in più per cercare di smussare gli angoli, di trovare un'armonia di coppia, per reinvestirsi nel rapporto, anche quelli di lunga durata, quando i figli crescono e se ne vanno. Professore, ci dia una mano. Ci sono diversi dati della letteratura scientifica che dicono che il vivere in coppia, per esempio, riduce la mortalità generale e dà una serie di vantaggi. Uno di questi vantaggi è che i fattori di rischio per le malattie più importanti, come le malattie cardiovascolari, sono ben correlati all'interno della coppia. cosa vuol dire? Che se il marito ha la pressione alta, la moglie tende ad avere la pressione alta. Se la moglie ha il colesterolo basso, anche il marito tenderà ad avere il colesterolo basso. Si può quindi impostare un programma di prevenzione e di miglioramento dello stato di salute rivolgendosi non più all'individuo singolo, ma alla coppia. Se il marito è iperteso, è bene che anche la moglie mangi, per esempio, con poco sale. E questo è dimostrato che alla fine il partner della persona ipertesa o della persona diabetica che segue lo stesso programma di prevenzione si avvantaggia molto per la sua salute. Professore, lei è sposato? Sì, sono sposato. Ha un segreto che vuole condividere con noi per una coppia felice? È una domanda difficile. È quello di condividere l'entusiasmo del giorno dopo giorno, di non pensare di essere arrivati. Grazie professore, buona giornata. Grazie per essere stato con noi e anche grazie per questa ricerca che ci rincuora. Andiamo a Perugia, ci chiama Barbara. Buongiorno Barbara. Buongiorno, sono Barbara, ho 37 anni, ho 5 figli, convivo con mio marito da 20 anni quasi. Sì. E niente, volevo dire che anch'io ultimamente, negli ultimi anni, diciamo, mi sono sentita un po' oppressa dalla routine, facendo solo la mamma e la casalinga. Che non è un solo, eh? Io direi che le mamme e le casalinghe fanno il lavoro più difficile e più impegnativo del mondo, se si può chiamare lavoro. Comunque questa è una mia idea, ma Barbara, la capisco, immagino, perché i bambini, che poi 5, batte Alberto. Guarda, ho una breaking news, perché ha scritto Angelo che ci aveva chiamato: abbiamo un figlio e andiamo a gonfie vele. Ecco. Questo per tutti gli ascoltatori che continuano a dirci loro non avevano figli. Barbara, quindi si sentiva un po' schiacciata da tutti questi impegni e che cosa ha fatto? Ho parlato con mio marito, gli ho detto che avevo bisogno, insomma, di avere degli spazi miei, di trovare dei miei impegni, insomma, qualcosa per me. Lì per lì non comprendeva, lui pensava che avevo voglia di scappare dalla famiglia, no? E invece poi mi ha compreso e adesso, insomma, sono più tranquilla perché mi sono trovata degli spazi per me, faccio dei corsi, faccio cose che interessano a me. E quindi le energie che trova fuori le rimette nella coppia. Barbara, esatto. Brava, perché dobbiamo, professoressa Giommi, lei è d'accordo? Tante volte abbiamo bisogno di coltivare degli interessi per dare vivacità alla coppia, no? Perché ci appagano e quindi ritroviamo e ritorniamo a casa più contenti. È verissimo, perché nel momento in cui io riscopro un po' della mia personalità individuale, posso coltivare interessi, conoscere persone, anche in modo sereno, non appunto per trasgredire le regole o per tradire, ma proprio per nutrire la nostra personalità, in generale si riesce poi a portare nel rapporto di coppia le batterie che sono state ricaricate, altrimenti andiamo in esaurimento. Certo. Allora abbiamo meno di un minuto, non posso sforare, e quindi mi raccomando a Paola da Treviso. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono nelle sue mani, anzi nelle sue parole. Mi chiuda questa trasmissione, se no mi sgridano, con un messaggio di ottimismo, mi auguro, se no con quello, certo, che ci vuole noi dire. Noi siamo insieme da 26 anni, ormai i nostri ragazzi sono abbastanza grandi da regalarci del tempo per noi. Sì. E niente, la complicità comunque si costruisce nel tempo, non è che si inventa quando serve, insomma. Quindi niente, se posso raccontare un episodio di sabato scorso, sì. Visto che i nostri andavano via con gli amici eccetera eccetera, abbiamo chiamato una coppia di nostri amici che hanno 3 figli piccoli, sì. E abbiamo detto: guarda, se volete andare al cinema vi teniamo i bambini noi, eh? E questo gesto così che abbiamo regalato a loro, che non ci credevano quasi, dalla gioia di poter uscire in coppia loro che hanno i figli, certo, piccoli, ci ha dato tanta gioia anche a noi, tutto qua. Paola, si sta candidando anche Alberto, ne ha 4, è un po' lontano da lei perché vive vicino a Milano, ma comunque è una bella idea per delle coppie avanti con figli grandi. Fate uscire le coppie, le neocoppie con bambini piccoli. Professoressa Giommi, la ringrazio per essere stata con noi, buona giornata. Buona giornata anche a voi e a tutti. Alberto, noi ci sentiamo sabato, noi invece domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.